niente. Era meglio quando c'era la musica. Beh, che aria tira. Fai bene. Io un po' di PC. Tanto cosa fai? Stamattina ho fatto una cucina sul tetto, ma non posso lavorare. Accuditi che cuccio. Ah, sono nel in PDR. Per quello è che non c'è nessuno al radio. Come le lumache. Quindi guarda se stacco a vedere se arriva bene lo stesso, guardami. Ecco qua, così sono liscio liscio. Vedi un po' se è cambiato. Addirittura, cioè adesso è uno o due, murati, caspita. Tu pensa che adesso fai da mezzo watt a 10 watt, 12 non di più, Così è liscio, eccolo qua, così è col 747. Aspetta che provo un'altra radio che ha lo stesso lineamento, aspetta. Eccomi, ci sono? Allora, così è senza niente, liscio liscio. Va bene, guarda un attimino così, si è cambiato, 1, 2, 3, qua si è toccato il mic, Guarda così, si è cambiato, diciamo che è lo stesso microfono, però uno è più recente e l'altro è più vecchiotto. Guarda così, si è cambiato. Bene, allora mettiamo, aspetta, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedi un po'? Eccolo qua, questo è a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perché cambia da microfono a microfono. Guarda il segnale. Bene, adesso te lo attacco, Guarda un pochino, ora, questo è sempre lo stesso 747. Vabbè, però c'è da dire una cosa, che questa è una radio che non è stata mai toccata, è un vintage, mai la toccherò. L'altra invece è stata toccata tipo camionisti, ecco, quindi la 2 watt a 12, 15 watt, e questa invece ha 4 watt fissi. Quindi questo è un muretto, questa ne fa due volte per 48, ti puoi immaginare, però è un 23 cari. Eccomi, 1, 2, 3, crolla. Questo è uno Seat SSD, 23 cari, 4 watt. Sì, si può abbassare. Adesso è a 8, se lo abbasso a 7, guarda un pochino se ha cambiato. 1, 2, 3, a 6, guarda un pochino, sempre qua, adesso è a 6. I toni sono a 6 e il volume a 6. Aggiudicato, allora lasciamo così. E dipende da come magari la timbrica della radio della voce mia, non lo so. Va bene. Vabbè, comunque arriva più in basso questo perché ha meno watt di spinta, dai. Questo è un 23 canali, un Seat SSD. Sì, omologato anni 60 parlo, Questo è un cazzo, ti posso dire, è un 4 kg, 5 kg in confronto a quello al 48, è molto più massiccio, cioè più radio, cioè è più basso, e questi ha. Ho anche l'altro da attaccare il B300, ma non so se va bene come se va in saturazione o meno, però adesso non voglio fare niente. Avanti il fischio. Buona, chi è? Ciao Vannino, vabbè, a casa sì. Ebbene sì, mi sono sentito con Walter stamattina, non si può neanche scendere da lui, quindi sono ben volentieri, perché c'è da fare un sacco di cose anche lì, però sono agarristi. Sì, vabbè, guarda così invece, Vanni, come va? Questa è diversa, questa è un po' più spinta. L'hai trovata o cosa? Pensavo che me la stavi regalando, ecco perché te l'ho chiesto. perché la tecnica che sto utilizzando io adesso? Io sto usando un Midland AR48S. Va bene, Vanni, va bene, va bene. È così. No, io l'altra c'ho uno del Fanbike, l'altro il 440. C'ho mezzo conservato. Devo portarlo a farci fare un po' di ginnastica. Ma. non so, qua intervengo io, scusami oggi, perché c'è uno che a parte che ha fatto il cane, che la moglie l'ha portato fuori, poi lui ha portato alla moglie al guinzaglio, attenzione. Sembra così per la cosa è critica. 27075. Bim bum bam, le civette sul patam. E beh, è delle fratelle. Ciao, scusi, mi aspettano Vannino che sta entrando con un'altra ragazza. Aspettando? Vannino. Vannino di Sorso, ci siamo sentiti stamattina in VHF. Gloria. Io mi stavo mi lavorando, facendo la barba e i capelli, tanto il barbiere non c'è, è giù di taglio. Attacca banda! E come mai? Oh, era meglio la prima, questa è nasina, Ma cos'è il 1000 quello? Parla tu con continuo un attimino che è possibile. Aspetta, eccomi qua. Sì, Vanni, prova. Ma vabbè, sto ascoltando quell'altra radio, adesso questa è l'altra. 44, sembra più tranquilla. Mettila. Perché questa non ti piace? Vabbè. Eugenio, se ne andato. Eugenio, non ti offende, vieni qua. No, vabbè, giusto perché stiamo andando. Due controlli all'amico Vannino che è anni senza entrare in 27, a farlo è un anno, io sono un po' senza sentirlo. Ha cambiato questa modulazione? Loggia. Vabbè, ma questa è una prova di ancora, non è una prova di poco fa. No? Sì, ma Vanni, cazzo, non ce l'avevi quel capo piccolino da usare in 27? Guarda che scendo al bunker, già lo sai Vannino. Intendevano gli Aesio con le MC 60 tenere anche le dita. No, non va bene, non sei cupo, ha ragione Tino, tutto stretto. Sì, 430. Cosa stavo dicendo? No, non funziona il processore in AM negli AESU. Assolutamente, solo nel 950 mi sembra. Perché ti non sta andando bene, troppo alto? No, c'è una differenza minima, però te l'ho detto apposta, cioè ero attento. Sì, T430 spinge, questo è mitico. Questo l'avevo preso da padrino 10 anni fa, è stato riparato 3 volte, tutte e 3 volte Fabrizio, e poi non ha più difettato, ma niente di che, farsi i contatti, si era bruciato il display, e ogni tanto mi si spegneva parlando, quindi avevo messo uno Fabrizio e va bene, sì, ogni tanto alterno, 4.30, 4.40, c'ho anche 140, se per quello. Ho anche il 140, che va molto bene, Sì, Vannino, lì è meglio, ti vuole un baracchino 2, ma perché è più forte rispetto al 440 o ha ben ascoltato. Pensiamo che abbiamo liberato che abbiamo fatto le berie a zero. La gente che la gente affitta la vita del coronavirus, la gente fa i Beatles. Ma i Beatles sono chiusi. Io non me li posso fare a misura. Cazzo ti, ho preso, me li ho fatti alla Charlie Chaplin. Non mancherò, non mancherò anche io fra un po'. No, vero, ma io non passo la meta perché ho paura, ho sempre avuto paura a passare la meta in testa. Ma se sta così bene, proprio non riesci a prenderle, mi, già mai capito. Corti, corti, corti, una misura di rasoio e vamos. Qui da giovedì da domani ho già scioccata, che è brutto, se ne affutti. Quando passa il coronavirus che esco saranno già lunghi. È vero, vabbè, io adesso devo fare una carbata, figurati. Vediamo, vediamo, domani lo fa male. Ma mi metto la macchinetta a Nicola, si inizia dalla schiena, salendo. No, quelli non me li tocco, ti. Quelli me li fai l'aria all'inizio dell'estate, se riusciamo ad andare al mare quest'anno. Se non si tocca lo scaldabagno o la vasca da bagno, ma ti ci dici, per carità, che speriamo che cambi davvero. Domani, Vanni. Io avevo, è venuto l'altro giorno a portarselo via perché l'ha venduto proprio per accenderlo, non per usarlo. Però io ci avevo il cavetto dell'MC60, no? Cioè quello originale Kenwood e l'altro originale sempre, però Andrea mi aveva fatto la connessione IAESU. E a volte usavo 950 con l'MC60, ma non so quando esce bene. Questi livelli e ti. Perché il 950 c'ha il processore in AM, capito? In AM ha il processore, non capisco perché, cazzo, gli altri AM sono virani, il 950 ce l'ha, agisce. E qui c'è la stramodulazione, è una cosa fenomenale. Se lì hai, se stai usando quello lì, Vanni, non funziona il processore in AM, se no altrimenti ti avrebbe dato una bella spinta. Cazzo, mannai i baracchini, buono il baracchino bara 27, io ho 430, ho 440, ho 140, questi qua sono per la 27, gli altri non li uso. Se uso 756 e Royaeso in AM va a gaga. E se non ne hai mi passa l'attino già, ne ha un cantarano, ne ha. Oh, mi ha prestato due, uno President Lincoln, Antonio, è un 48 modificato stesso, non è troppo, non è che ciò che sarà pure di spostarle e farle, io sono un baracchino, non è che se ci fate lui, anzi di vendermene, se riesce a farli fuori. Lo so, Vanni, però tanto a vedere, adesso ne avevo uno che mi ha prestato Walter, un quel plutto che modificato, quello se ne va in 10 mega addirittura, quindi devo bussare la porta quando sarà Fabrizio nuovamente a metterla a posto. Anche lui andava bene, però anche lui ha la sua età, gli acciacchi ce li ha. Che detti? L'altro giorno non facevo le prove con Fabrizio in OTF, è un problema che non so se l'ha trovato, se è riuscito a risolverlo, cosa ne gioco? Siamo tutti in avaria con queste. Io sto aspettando a mettermi questo venticello, oggi volevo salire, però la verità non mi sono fidato. Adesso vediamo se domani c'è il vento basso, devo togliere il boom, è rimasto il boom attaccato al sistema T, gli altri radiali sono tutti in terra, è un pezzo del radiatore c'è da togliere, però ha detto che già viene Andrea, adesso vediamo, quei simmetri, quella simmetri rimane attaccata, no, non aggiungeva la scimmia io quella dei simmetri, mamma qui, io avevo provato e mi dispiace tantissimo, la 320 a Tino, e invece non abbiamo fatto in tempo, mi sarà da ragione, si è fatta tutta a pezzi. Tu grasso come ti giro, me la vai a tranchino, ma tu mi chiedi in alto, mi devi salire sul palo perché non scende di più, di salire sopra il palo, come si dice, che ha fatto scalinato, che ha fatto Fabrizio. Allora, Beato, ma non tu sali, non ti faccio salire io, hai capito? Non ti faccio salire io. Quando trovo il sistema per poter buttarne tutto giù, allora è tutto a terra. Assolutamente no, quando è troppo pericoloso. Assolutamente. A Puglia già si Puglia, non è un problema quello. Non è un problema. No, musica, non è che faccio mia musica, non si è separato, non faccio musica della Buongiorno. No, vabbè, c'è quello a video, c'è quello andato a vedere anche uno. Sì, vabbè, però, già hai visto i risultati come stanno andando qua, quindi prima era poco preoccupata, adesso sta iniziando a preoccupare un po' di più. Lo so, Tino, ma se la gente è imbecille, purtroppo non ci può fare niente. Dovevano circo, come si dice, praticamente chiuderlo in quel globo dell'ospedale. Morto quel signore, quello lì non doveva entrare e uscire più nessuno. Ok, e invece hanno continuato perché nessuno ha capito qual era il problema, hanno capito dopo, non è morto quel signore, che sarebbe di tutti i parenti. E da uno all'altro, dall'altro all'altro, dall'altro all'altro, e siamo arrivati a 35, ora siamo a 130 e rotti a Sassari, quindi è chiaro che è più preoccupante, però la colpa è sempre la nostra. Bastava farcene a casa e via. Vabbè, non si può dire niente, è inutile stare a parlare di questa cosa, perché intanto mi sa che ci facciamo l'estate a casa, richiusi con i condizionatori accesi, la vasca sempre piena di acqua fresca, è andato un tuffo. La cosa che mi dispiace a me è che non mi posso muovere, Tino, ma che in campagna posso andare. Questo non lo so, perché c'è un mio vicino, sinceramente, che ogni giorno scende e sale, non so se lo può fare, ma lui dice che si è informato, abita dalle parti del Bagratella, per farti capire, tu sai benissimo dove abito io, quindi a 2 chilometri da casa sua. Però lui vive lì, viene qua in campagna ogni santo giorno. Adesso ti ho detto io, guarda che tu devi stare a casa, no, io mi sono informato, così posso venire a casa. Se ti sei informato non so cosa dire. Lui ti ha detto balle, nel modo più assoluto, ci deve essere un motivo valido per spostarti da casa tua alla campagna, a meno che non hai animali da dare a mangiare, allora è un altro discorso. Se hai un cane, se hai degli animali maiali, se hai bestiame da dare a mangiare, ok, allora è consentito lo spostamento, ma se deve andare in campagna, può bruciarsi in campagna, pigliare e avvisi una impura di birra, non lo può fare, nel modo più assoluto. Io non c'ho niente in campagna, nulla, il cane lo sai che è qua a casa, quindi non ho nessuna motivazione valida per potermi spostare, capito? Anche perché l'abitabilità io ce l'ho qua, se avessi avuto l'abitabilità in campagna allora è un altro discorso, quindi non dica tronfate. Cosa, Vanni? Vabbè, io non so se lui ci ha fatto l'autogiustificazione, una scusa banale, non saprei cosa dirti, perché è una cosa che io gli ho detto, che doveva farsi a casa, e invece a quanto pare ogni giorno è qua, comunque, già in campagna sua, no, a me non mi disturba, io penso per me. Sì, no, non funziona così, no. Non puoi raccontare a Fauri, no? Non le puoi raccontare, guarda, perché io sono sceso a Porto Torres con una motivazione ben valida, ok? Perché non è che ci scendo molto, però sono dovuto scendere questa volta perché c'è mamma che non sta bene. È proprio nell'autocertificazione che io ho scritto la motivazione. Mi hanno fermato all'incrocio di San Giovanni, la polizia stradale, mi ha chiesto documenti eccetera, l'autocertificazione, l'ho data, gli ho spiegato. indicato dove stavo andando, da dove sono partito, dove dovevo andare. Prima di arrivare io sapevano già che in quella casa abitava Falchi Giuseppe, Vero Vamati, via Cavour 48, Porto Torres. Ma buffonendi sì. Vabbè, cosa vuoi dica? Così ti sto dicendo, meglio che sia così. Prima di arrivare, non so come abbiamo fatto, ma sapeva già tutto. Perché se varà da vista da Nivimando, non vi farà, andrà già a Bagianuda, lì, là, bim, bum, ma, capito? Hanno telefonato, si sono accertati via radio a vedere se io stavo andando lì e se effettivamente lì abitava mia madre. Figura di Edo ci può raccontare fuori. No, non si scherza, c'è la galera, mi. C'è la galera, stai attestando un autocertificatore falsa, c'è la galera, sì, non è così. Io me ne vado a casa, spero che non sia così, ma non solo per me, per tutti, per carità. Per chi ha campagna, per chi vuole godersi il mare, per chi, cioè per tutti noi. Però questa cosa mi sembra una cosa che quest'anno a noi ci picchia forte alle palle, ce le stringe molto molto forte. Eugenio, che prendi? Che prendi? Oh, allora cante, passa in atto pubblico, perché quello diventa un atto pubblico la tua certificazione, 2 anni di galera. Già c'è scritto sì, Natalie, c'è scritto. C'è scritto dai 3 mesi ai 2 anni di galera, dipende da quello che stai autocertificando. Ehi Eugenio, no, purtroppo è così, anche tu. Ho visto che sei preoccupato perché chiaramente lavori in un posto dove di gente ne passa tanta e non c'è a scherzare. Io esco la mattina alle 9, porto il cane all'interno del complesso, quindi dentro, non esco fuori nella strada perché posso anche uscire perché nell'autorizzazione c'è scritto, ma io non esco, rimango aperto per quel posto per giocare il cane, per fare i bisogni del cane, c'è. E quindi non me ne affrutti nulla, ok? Le sigarette, fortunatamente, ne avevo comprato una cassetta, quindi non esco manco per le sigarette, perciò il caffè me lo faccio a casa e si rubi le luci. Non c'è a scherzare, è una cosa troppo troppo brutta. Vai Vanni. Ma vedi Eugenio, tu non scherzi perché chiaramente la preoccupazione ce l'hai, lavori al porto dove arrivano le navi, dove sbarca tanta gente, poi tu so che per il lavoro che fai sei a contatto con anche i membri dell'equipaggio, del personale, cioè non è chiaro che devi essere preoccupato, è chiaro che devi essere, tu sei come possono essere i medici e gli infermieri, sei a rischio, quindi spero che ti tuteli, spero che stai molto attento perché veramente è un casino, non è un gioco, è un casino, siamo in guerra e boh, e questa guerra la dobbiamo vincere, speriamo. Ciao Nicola, buonasera, ma mi sa che non ti ascolta nessuno, eh? Tino, lo ascolti a Nicola. No, prova Nicola, buonasera. Sì, positiva, Giulia. Ma dai che puoi entrare quando vuoi, tanto credo che ti ascoltino, magari un po', forse a Porto Torres, non so se Eugenio ti ascolta. Vanino, tu lo senti? Beh. Vanni. Ah, bene, riprendi tu, mi devo allontanare dalla radio, scusate. Sì, c'è un break, riprendi il break e fai girare, c'è anche Natalino. Papà, dai, buonasera a tutta la ruota, Gianni non più rumo. Avanti Natalino, riprendi tu e poi fai girare il break. Ciao Gianni, ben sentito, buonasera, dai. E buonasera a tutti che non avevo salutato poco fa. Dovete scusare la maleducazione. Avanti, qua. Sono al telefono un attimo. Pa. Riprendi già. Eugenio, avanti, a te il Michelino. Non ho capito nulla perché o ti hanno messo la portante o stai uscendo a fischio. Allora erano ciccarini. Cosa ha detto Eugenio? Non ho capito, ripeto. Eugenio, me l'ha fatta il sonno oggi, ero troppo stanco. Mi è successa una cosa a casa, guarda. Ha cominciato a perdere acqua, cassetta del water, casa chiusa tutto quarto, rubinetti d'arresto tutto quanto, e continuavo a perdere, un casino qua, raccogliendo acqua, e non mi posso neanche inchinare io, raccogliendo acqua, non c'era nessuno a casa perché Marco, mio figlio, era giù col cane, e quindi mi sono dovuto arrangiare, mi sono stancato un bel e alla fine poi sono crollato. Ha capito, sì o no? Avevo Filippina, ad esempio, io. Andava, chi c'è in ruota? Dai, fatemi un po', ho fatto acceso adesso, ditemi chi c'è in ruota. Ho sentito Attino, poi Claudio, a te e a Natalino. Chi c'è di altro? C'è Nicola già. Ah, c'è Nicola, dai, buonasera Nicola, avanti. Capito Marco che non devono uscire, fatti il conto se capiscono quello, Nico. Sotto casa ci sono sempre ragazzi seduti nel muretto, nessuno gli dice niente, capito? Due ragazze ieri, tranquille, vicine, attaccate, parlando, ridendo e facendo. E niente, nessuno li dice nulla e quindi continuano a fare quello che vogliono. Invece se i carabinieri, la polizia, quando trovava questa gente qui, un po' di colpi di manganello in testa e vi arrestavano, così almeno la finivano, perché o bisogna usare prima la linea morbida e poi quella dura, se non capisco. Certo, ma c'è gente che non ne frega un cavolo di queste cose. L'hai visto quel ragazzino come ha trattato quel carabinieri? Non so se l'ho visto su internet. Che carabinieri erano fermati, erano in greffa. E questo qui si è messo a voce contro i carabinieri. I carabinieri ne ho visto tanti. Non mi fate paura, questo e quell'altro, facendolo sbruffo. Un ragazzino su 17 anni. Beh, oggi l'hanno preso alla fine e poi l'hanno arrestato, gli hanno messo le manette. Oggi è uscito su internet dicendo che i carabinieri l'avevano picchiato, che l'avevano sbattuto la testa al muro, che questo e quell'altro. Quando il carabiniere ha filmato, tutto quello che stava dicendo e quello che stava facendo. Magari l'avranno anche picchiato in caserma, ma se l'hanno picchiato l'hanno fatto troppo poco. Ecco piatto, Lupulico. Registrato, io non ho sentito nessuno. Giuse, avanti, buonasera. Falla, licito. Dipende dalla marca. Che ad esempio si acconta le stelline addirittura. Non sappiamo cosa avanti, ma sì. È proprio vero, non sappiamo cosa fare, Giuseppe. E vabbè. Più che così lo si può fare, Giuseppe. Io al limite posso scendermene giù ma andare in cortile, cammi veri. Se vado in cortile col cane non mi vede nessuno. No, posso starmene quanto voglio, posso andare, pulirmi la macchina, fare, solo che la voglia che manca, perché io sono così e non ho voglia, se no sarei sceso a darmi una pulitina alla macchina dentro, eccetera. Almeno avrei ammazzato il tempo. Quelle ragazze bisognava farlo ieri, che erano attaccate e sedute nel muretto di fronte a casa, in quel buriciolo che c'è in piazza della Meridiana lì, erano sedute lì tutte e due che parlavano, attaccate, ridendo e scherzando. Se qualche persona già si vede, io quando porto il cane mi lo porto, fa i suoi bisogni e subito a casa, e sto con tutta la via agli arresti domiciliari. città e me ne torno a casa e non ci sono neanche 200 metri. Sì, sì, non se ne tanti, io devo essere nei pesci in casa. Vabbè, anche il prima lo era, non ti potevi allontanare. Nei pesci di casa, io, vabbè, c'è via Bonorva lì che c'è il prato, quanto ne vuoi. Marco lo porta lì dove c'è il prato. Già sta bene lì. Vabbè, prima le facevo fare, partivo da casa, facevo tutta la strada nuova, scendevo da via Prati e tornavo dall'altra parte. Sarola. Lo so. Io l'ho detto, Giuseppe, quando si trova la gente in strada così. Adesso la linea morbida l'abbiamo usata, usiamo quella dura, una manganellata in capo e subito caricate in macchina. Cosa cazzo ci stanno a fare queste persone che non hanno capito un cazzo della vita? Ha ragione Gianni, Giuseppe. Se continua così non ne siamo più. Giuseppe, devono sfidare la legge, c'è sempre gente che vuole sfidare la legge, questi ragazzini sono dei quaraquaquà, perché ho visto quel ragazzino che ha trattato male quel carabiniere l'altro giorno, adesso che si è messo su internet dicendo che i carabinieri gli hanno sbattuto la testa al muro, quando io ho visto tutto il filmato, quel carabiniere ha filmato tutto, ha detto tu non devi filmare niente, io carabinieri li ho visto in vita mia, non li temo, questo e quell'altro, l'ha preso a voce. I carabinieri, io qua non capisco come abbia fatto quel carabiniere, tra l'altro era grosso e alto, come abbia fatto a sopportare tutte queste ingiurie e cose che gli ha detto. Beh, fatto sta che alla fine l'hanno arrestato e lui è andato a dire che l'hanno portato in questura e è andato a dire che l'avevano sbattuto la testa al muro. Gli hanno fatto, ha ragione Giuseppe, una bella manganellata alle ginocchia. Io dico di abbassata la gara. Tu ma ne sarai tu prima cosa, ma capo giorno, dico il numero di telefono pure. Tu sei cuocuomane, capito? Oh, Claudio, ci sei? Dimmi. Ascolta, Claudio. Allora io a casa non ho mai avuto problemi di QRM, mai, ci tuvo il baracchino che sta andando male, vabbè, cioè, questa macchina ero a casa, no? È un QRM tipo 3-4, no? E allora cosa, l'uccello non lo sento, proprio zero, Gianni mi stava arrivando un segnale forte, come al solito, però con un rumore sotto. Può dipendere questo QRM, questo rumore che ho sotto, per maracchini non so perché ho provato sia uno che l'altro e fanno la stessa cosa. Cosa può dipendere? Che sia l'alimentatore? Sì, può dipendere anche dall'alimentatore, Lu. Ma stamattina c'avevo un po' di QRM anche io, perché essendo nuvoloso, magari c'era qualcosa nell'aria, capito? C'era un po' di resto nell'aria, tutto qua. Non è che c'è a preoccuparsi, adesso di provare, magari se ce l'hai anche domani, E infatti mi ci porto questo qua a casa, trovo questo, sono curioso. Potrebbe essere anche qualche apparecchiatura da qualche vicino che hanno attaccato, che disturba, che ti fa rientrare. Eia, potrebbe essere anche quello, tante cose sono il QRM o Lu, non ti preoccupare, a volte succede, dimmi oggi, sempre quello è. 39 33 69 129. Un attimino che sono su WhatsApp con Andrea, un secondo, lo prendo subito. Ehi, saluta. Oh Giuseppe, ti rammenti quando disturbava te quell'affare dell'Ene, lo cosaina, ripetitore, che non ne cavavi più. E poi alla fine cosa avevi scoperto che era? Mi pare che era un'apparecchiatura che usavano per una persona malata, così è. Pagato. E intanto tu eri diventato di Marco, eri andato mi pare anche all'Enel per chiedere se quei ripetitori potevano causare questo rumore, eccetera. Cazzarola. Poi qualsiasi apparecchiatura può succedere che rompa le scatole. Io quel REM stamattina non ne avevo nulla, dico la verità, ma questa antenna, da quando ho messo questa antenna quel REM è abbassato di brutto. No, quello è l'alimentatore, no, dell'amplificatore. L'amplificatore va sul palo, Giuseppe. Io pure ce l'ho dentro casa l'amplificatore, l'alimentatore. Partitore d'antenna, come ho fatto io, anche io ricevevo male in sala e in cucina ricevevo bene. Ho messo un partitore d'antenna che praticamente serve per dividere il segnale omogeneamente, se non va tutto da una parte e dall'altra magari non va, capito? Dipende anche sempre dall'antenna che c'è su, se prende il segnale bene, tutto quanto, dipende da tante cose. Se l'antenna è nuova è normale che il segnale te lo dia buono. E infatti perché molti preferiscono l'antenna non di quelle del palazzo, un'antenna contro il suo, perché quando ce l'hai così te la puoi regolare come vuoi e cose, quando ce l'hai quella del palazzo uno vede bene, l'altro vede male, insomma è un vero problema. Anche qua è successo che si vedeva male e cose, poi è salito il tecnico, ha toccato l'antenna e ne fa ad un pizzo, perché c'è già lo grido, si vede male, è pratica, c'era il miscelatore senza il coperchio, tutto rugginoso, i fili, ma ha cambiato tutto. Avanti Lupo Grigio, a chi stai chiamando? A Giuseppe, lo senti a Lupo Grigio? Avanti oggi. Sì. Bene, in che senso? Cosa si è fatto? È un po' impastata, è migliorato. K. E allora Fabrizio, come ti devi bambinare? Marco. Posso una domanda? Vai con le domande. Io sono l'uomo dei mille mondi. Ma è fatto di quelle incaricate da un po' di due mondi. No, quando sono scariche si caricano, quando sono scariche tutto, mentre utilizzo poi la memoria se ne va. Quindi allora sono anche scariche, giusto, perché quelli hanno l'effetto memoria. Ma dipende sempre quelle che compri. Ci sono diversi tipi, capito? Ma io non uso più il pacco partito di girare, perché dopo due volte che l'ho usato è ricaricata questa scritto. Le batterie non servono a nulla, io le ho provate sul portatile, si scaricano subito, devi stare sempre caricandole. Guarda, per me sono meglio le batterie che poi butti via, quelle normali, quelle dura, almeno ti durano un po'. Quelle non durano un cavolo. Usi il portatile, io quando portavo il cane giù, per non perdermi il questo, quando ce l'avevo a casa, mi portavo giù il baracchino e parlavo anche con portatore dalla strada dove sono io. Parlato. E niente, ma amici mi diceva, noi ti stai abbassando di segnale, già ti stai abbassando, alla fine non viene la di più, duravano pochissimo. Ok, allora voglio dipende sempre. Io addirittura ce l'avevo da 2009, Giuseppe. Possono scoppiare, Giuseppe, che cosa ci dirà? Divento lo dicono per non comprarle. E quanto dura, Giuseppe, se le carichi così? E quante cariche fai? Quante cariche si possono fare? Perché durino normale. In effetti così. Avranno attrezzature particolari loro. Da voi si torna a carregatura ancora di più. Non costano quelle ricaricabili, avevo speso mi pare 25 euro, quante ne avevo preso? 4, mi pare che erano 8, 25 euro ho speso, dalla alla GBC da poi chi c'è un ladro, poi è poco caro, fate pagare entrata in quel magazzino, perché non è un negozio, è un magazzino questo. Pacchi, che sono senza aprire, ma sei da casa, tutti accatastati nel negozio, non c'è posto manco a passare. Mi sono arrangiati, Giuseppe. Se non si arrangia spende meno. L'interessante è che non ci siano pericoli, perché magari quando si è scaricato tu non te ne rendi conto che ti esplode e va di casino. Ma così dicevano prima e poi. Adesso bisogna vedere. Sono esplosi anche i cellulari addirittura. Mai usare il cellulare con la carica batteria attaccata, perché può succedere. A uno le ha spaccati i denti proprio. Cosa c'è oggi? Io che colpa ne ho se non lo senti? Non ho nessuna colpa io. Io lo sento. Avanti Natalino, riprendi. Avanti Lupo Grigio, riprendi tu. Avanti, rifai la domanda. Ma non lo so, io non ho sentito nessuno, a meno che mi abbiano parlato sopra. Ha detto che non sente Lupo Grigio, non lo sente proprio per niente. Ma purtroppo Lupo Grigio c'ha l'antenna che ha, e come fai a sentirlo? Casino. Anche se io con Sandro Tigre ho parlato dalla strada che porta al monte, quella nuova che c'è vicino a casa, ho parlato tranquillamente. Ma lì c'è tutta la visuale, si vede tutto il panorama, le navi, le barche, tutto. un po' grigio, deciditi a metterti questa antenna a farsi sentire da tutti, il cavolo. Il portatile si usa all'inizio, poi diventa un attrezzo che si tiene di riserva, diciamo che guarda, c'è un decreto, tu glielo presenti al capo condominio, non ha da dire niente, c'è scritto che ha l'obbligo di farti piazzare l'antenna, non posso dire nulla. Ciao Provigio, vedi, se avessi avuto l'antenna avresti potuto continuare a parlare. Avanti Giuseppe. Ah, ma se n'è andato, e oggi? Ehi, ti ha chiamato Giuseppe, non ne senti? Ah, non senti manco Giuseppe. E via, via. Andiamo, beh, andiamo. Ehi, non me ne parlare Giuseppe, già sono messo male, cosa, stamattina Marco è sceso giù a portare il cane, mio figlio, cazzo, ho visto tutta la... il bagno alla gatto c'era, mi sono dovuto inchinare a raccogliere l'acqua, chiudere i rubinetti d'arresto, guarda, non potevo nemmeno inchinarmi, non lo posso fare, almeno prima di 3 mesi non posso farlo. Eppure mi sono dovuto destreggiare, mi sono stancato talmente tanto che poi mi sono buttato sul letto e mi sono addormentato sino alle 6. No, io ho il water che c'è attaccato alla vaschetta, ce ne presenti quelli con la vaschetta attaccata al water. Probabilmente lì c'è al centro, ci deve essere qualche guarnizione che viene stretta da dei bulloni. Probabilmente si sono mollati quelli. Io all'inizio, quando perdevo appena da davanti, ne avevo fatto tutto il giro col silicone bianco, non si vedeva nulla, era proprio fatto bene. Non si vedeva niente. E non deve essere, non ha trovato sfogo lì e l'ha trovato di lato adesso, capito? Quindi ho già avvisato l'idraulico, l'ho trovato messo male, mi ha detto già, io sono molto male a vivere, c'ho un raffreddore, tosse, ho detto mamma mia, cioè qua domani vengo e te lo guardo, ti cambio i bulloni, la guarnizione sicuramente è quello lì, perché la vaschetta non penso che sia la vaschetta, o almeno che si sia spaccata, cosa dici? No, mi metto la mascherina a sta distanza, no, non mi avvicino. Tiragli una fucilata che ti contagia, non fa entrare nessuno a casa tua così. E cosa sto con senza acqua, perché devo chiudere tutto, i rubinetti d'arresto, tutto quanto, un casino Giuseppe, devo lavare i piatti, perché quando chiudo il rubinetto d'arresto ti chiude tutto, ne ho due, uno che chiude lo scaldabagno e l'altro che chiude il circuito dal bagno sino alla cucina. È proprio la giunzione che c'è col water, dalla giunzione esce da lì, proprio dove aggiunge col water, e sicuramente quelle cassette c'hanno una guarnizione, vanno incastrate e poi abullonate, probabilmente si è mossa, che ne so, ma già perdeva un pochino da prima, te ti ripeto, avevo fatto tutta la parte di davanti a silicone bianco e non perdeva più, adesso sta perdendo di brutto, e se tu lo apri ti allaga tutto il bagno. Ma è fatto, e a me già me l'hanno fatto il danno, si è allagata la casa di su, mi stanno scendendo a pezzi tutta la pittura, mi sta scendendo, infatti glielo voglio far vedere, cazzo, già me l'aveva fatto nel bagno, una cosa del genere, adesso me l'ha fatta anche in cucina, ma a finire che me devo fare tutta la casa, e lui è anche, lavora nell'edilizia, capite, muratore e cosa, se glielo dico, mi sta facendo tutta la casa così, cazzo, ha allagato, meno male che c'ero io, se lo sai, era grida la moglie, il cazzo è sceso giù, Gianni, aiuto, cosa c'è? Tutta la gatta, la casa, non so cosa fare. perché sono salito correndo su, grazie ad un malattia, sono uscito da casa, ho preso, gli ho chiuso il biglietto da me, sono detto ascolta, ti avrei aiutato, ma siccome sono in malattia, se vede il medico fiscale è un casino. No, no, ti ringrazio, lo dico a mio marito adesso, è andato il marito con una pompa di quelle sommerse e ha aspirato l'acqua con quello. A me mi è già successo, quando si è rotto il sifone di notte, e il gatto ci aveva allora, ragazzi, veniva il gatto, miau, miau, miau, lo sai il gatto, la paura dell'acqua, e saliva sul letto, e scendi giù, lasciami dormire tutti, che domani devo andare a lavorare, e insisteva, miau, miau, miau, accendo la luce, e giù mi suoneva, oh, Giuseppe, non so potuto scendere manco dal letto, mi arrivi, colpiva tutto il piede, il cazzo, tutto allagato, tutta la casa, e io ero solo, perché l'idea stava partorendo ed era all'ospedale, quindi ti puoi immaginare, non è venuta un'anima viva a aiutarmi, mi hanno bussato alla porta perché stava scendendo nelle scale da lui, e non mi ha aiutato nessuno, ho fatto tutto da solo, mi sono dovuto pulire tutte le scale, tutto qua, un casino, la raccoglievo con la paletta, della Mondetta là. Lo so, purtroppo di notte è una sorpresa brutta che ti trovi, come vai a scendere dal letto ti trovi l'acqua riempita. Io ho capito due rubinetti d'arresto, non sapevo se era uno o l'altro, quindi li ho chiusi tutti e due. Beh, continuava a scendere Giuseppe. Perché? Perché l'acqua nella casetta era rimasta. Tiro la catena, faccio scendere l'acqua e quel poco che avanzava scende, continuava a scendere, e sempre di più. Si allagava anche la mancia di luce. E lo sai suonare? Cosa c'è? Un quadro, Giuseppe? Ah, ecco. È tipo, cosa ti posso dire? Una rastrelliera, così, diciamo, dovrebbe essere. Con tutti i rubinetti, ho capito. Sì, l'ho visto in alcune case, quello lì. No, ma io non ce l'ho quello lì. C'ho rubinetti d'arresto per i lavandini, ce ne ho uno che va bene solo per lo scaldabagno, però cosa strana, no? Ho chiuso quello sotto la vetra, la lavandina, e niente da fare. Poi ho chiuso quello, anche quello dello scaldabagno, e si è bloccato. Non capisco che cosa c'entrava lo scaldabagno con quello lì. Vabbè, comunque adesso ho lasciato tutto così, c'ho l'acqua in cucina e in bagno, e nello stesso tempo è chiusa l'acqua. Lo sai cosa ho fatto per non scendere l'acqua, per non riempire la cassetta? Gli ho alzato il braccetto, l'ho messo sopra, di modo che non scenda, che risulti come se ci, che fosse alzato il coso. Ciao Lilia. Scusate un attimo. Mi devo assentare un secondo, Giuseppe. Riprende.